Euroreportage. Europa-Italia. Quanto ci costa un anno in più di liceo? Di Claudia Vanni. Fare il liceo in 4 anni è veramente una cosa innovativa secondo me, perché poi 5 anni mi risultavano un po' tanti. Marina vive in Italia da 7 anni ma è ucraina. Là le scuole superiori durano meno, per questo il quinquennio italiano le sembra lungo. In Ucraina è come esattamente come in America o come in Inghilterra, si va all'università a 17 anni. In un'ottica internazionale del mercato del lavoro viene da chiedersi quindi se passare un anno in più sui banchi delle scuole superiori non crei un divario maggiore tra i nostri studenti e quelli di altri paesi, europei in primis. Nell'Unione infatti optano per i 4 anni Belgio, Regno Unito, Francia, Spagna e Portogallo, solo per fare qualche esempio. Tra gli affezionati come noi al quinquennio invece rientrano Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Polonia, ma anche paesi nordici come Finlandia e Svezia. Il dubbio che si debba riformare il sistema per essere più competitivi ha iniziato a insediarsi anche nel nostro paese. Per questo all'Istituto San Carlo di Milano è partita una sperimentazione. Lo scorso agosto l'allora ministro dell'Istruzione Carrozza ha infatti dato il via libera al Liceo Internazionale per l'Intercultura, un progetto già discusso con il ministro Gelmini. Sono stati 19 gli studenti milanesi coinvolti, Marina è una di questi. Ha appena terminato il terzo anno e nel 2015, in questo periodo, sosterrà la maturità dopo soli 4 anni di liceo. Come lei, anche Ergon. Finiamo in 4 anni, veniamo da una scuola innovativa, italiana e non internazionale, quindi sicuramente siamo davvero molto ma molto più competitivi di un altro liceo qualunque. La sfida insomma non è di poco conto, come spiega il direttore dell'istituto Giuseppe Colosio, con un passato da provveditore della Lombardia. Intanto bisognerebbe uscire dal dibattito meramente quantitativo della scuola italiana, perché si parla solo di tematiche come organici, come posti, come numeri. L'istruzione però viene vissuta come un ministero in cui occorre far quadrare i conti, i bilanci. Lei, da direttore dell'ufficio scolastico regionale, avrà avuto a che fare con questi temi. Alla lunga questo consente sicuramente un risparmio, prima di tutto perché consente un utilizzo migliore, più professionale e più umano degli insegnanti, che oggi del Ministero dell'Istruzione sono dei numeri. Con la valorizzazione e la qualificazione degli insegnanti alla fine migliora il risultato senza produrre un aumento della spesa. Ovviamente questo percorso in 4 anni non vuol dire che, come è stato interpretato da qualcuno, come una riduzione di un certo numero di posti. Non deve essere pensato come un problema di riduzione della spesa, ma come un problema di miglioramento della spesa. I ministri praticamente tutti hanno avuto così a volte la percezione chiara dei problemi, ma la mia sensazione è che poi dopo la gabbia dell'apparato burocratico ministeriale, a cui contribuisce per la sua parte anche il mondo sindacale, che è un po' il pandan di questo apparato, abbiano finito per essere impigliati da questa ragnatela, che io chiamo la ragnatela della visione quantitativa della scuola e non della visione qualitativa della scuola. Come all'Istituto San Carlo si sperimenta anche a Busto Arsizio, Verona, Bari e Brindisi. L'attuale ministro dell'istruzione Stefania Giannini ha detto di tenere monitorati i progetti e di valutare un riordino dell'intera istruzione superiore di secondo grado, a partire dalle cosiddette medie, considerate un prolungamento poco significativo della scuola primaria. Ma entriamo nel merito. La riduzione del ciclo di studi, come sottolineava il direttore del San Carlo Giuseppe Colosio, richiede un ripensamento dei programmi e la formazione specifica per i docenti. Per fare questo, come sempre, c'è bisogno di risorse. Dove trovarle? In parte potrebbero essere recuperate dalla riduzione dei costi data dalla cancellazione del quinto anno. Il dottor Massimiliano Ciccia, dell'Ufficio Statistica del Ministero dell'Istruzione, ci aiuta a capire quanto costi alle casse italiane uno studente delle superiori. In euro abbiamo una spesa di 6.339,27 euro di spesa pubblica per studente della scuola secondaria superiore. Questo il costo all'anno stabilito dal rapporto OCSE Education at a Glance. Calcolando che i ragazzi delle superiori pubbliche sono quasi 2.660.000, per pagare loro un anno scolastico lo Stato sborsa annualmente 17 miliardi di euro circa. Eliminando il quinto anno, quindi, la quota di studenti si ridurrebbe e i costi si abbasserebbero, consentendo il recupero di risorse da destinare alla riqualificazione. Ma il dottor Ciccia dell'Ufficio Statistica del MIUR specifica: dobbiamo ricordare che questa somma, quasi per l'80%, è una somma di spese di personale. Pertanto è incomprimibile, perché il personale comunque viene pagato ogni anno. Quindi è un po' diciamo controverso dire risparmiamo se tagliamo di un anno il corso di studi. A mio parere, più che un risparmio in termini economici, dovremmo andare a fare una valutazione, che però, ripeto, lascio ad altri tavoli, sull'opportunità o meno di allineare, diciamo, il corso di studi ai 4 anni e quindi a quello di altri partner europei. Massimiliano Ciccia suggerisce quindi un allineamento europeo, una considerazione che occorre fare non solo in termini di durata del ciclo scolastico, ma più in generale sulle tanto discusse risorse da destinare all'istruzione. Sempre rifacendosi al rapporto OCSE, i cui dati sono stati forniti in anticipo a Radio 24 rispetto alla pubblicazione delle prossime settimane, il responsabile statistica del MIUR confronta la spesa dei diversi stati dell'Unione. La spesa totale in dollari per l'Italia nel 2011 per l'istruzione, per questo tipo di istruzione che ci interessa, ammonta a 8.519 dollari equivalenti, corrispondono per la Germania circa 12.000 dollari, mentre la Francia ha 13.000 dollari. L'Inghilterra 6.490 dollari, quindi noi in realtà saremmo più alti dell'Inghilterra, ma un pochino più bassi, un po' più bassi della Francia e della Germania. Gli stessi Stati Uniti, ad esempio, sono sempre sui 13.000 dollari. Confrontando il nostro dato con le medie, che forse ci danno una maggiore informazione, abbiamo che il nostro 8.519 si confronta con una media dell'Europa estesa a 21 stati di 9.457. Uno scarto non troppo profondo, quindi, ci divide dal resto d'Europa. Stesso discorso vale per la remunerazione dei professori di liceo, che in Italia si attesta leggermente sotto la media europea. I dati analizzati fin qui si riferiscono al 2011, poiché, spiega Massimiliano Ciccia, devono passare almeno 2 anni per l'elaborazione. I dati esplorano anche la spesa totale, che riguarda un po' quello che avevo detto prima, quindi non solamente la spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni, ma anche tutta la spesa dei privati e famiglie. Dal terzo anno in poi vengono versate le tasse alla provincia, 79,76 in termini di euro. Tra i beni e servizi ci sono chiaramente anche i libri, complessivamente 1.505 in euro. Diciamo che al sud le scuole hanno dei finanziamenti per fare dei progetti di sviluppo regionale proprio dal fondo, dai fondi europei. Poi il referente dell'ufficio statistica MIUR anticipa: ci aspettiamo che per il 2012, che tra l'altro stiamo iniziando ad elaborare adesso e sarà disponibile in questo analogo periodo nell'anno prossimo, ci aspettiamo comunque una lieve diminuzione della spesa, sicuramente non per un taglio lineare, ma perché è un effetto di razionalizzazione che ci portiamo dietro dalla precedente legislazione. L'ultimo anno, proprio nel 2013, e sicuramente nel 2014 ci sarà un incremento abbastanza elevato di spesa produttiva, di investimenti, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia scolastica, quindi ci aspettiamo comunque un incremento di spesa. chiedendo poi quando potremo assistere ad un intervento nel sistema scolastico, di cui ha parlato spesso anche il premier Renzi, il dottor Ciccia preannuncia. Guardi, da quello che stiamo facendo molto presto. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.